tempo di sport. Buon pomeriggio. Oggi parliamo di un altro calcio. In realtà, se mai davvero c'è stata, è sparita ovunque. Ma dove tra gli ultra e, temo, la malavita, c'è una contiguità evidente e non solo geografica. Siamo collegati con l'allenatore dimissionario della Juve Stabia, Massimo Morgia. Buongiorno Morgia. Buongiorno a lei. Buongiorno, ascolti, io vorrei che raccontasse lei che cosa è accaduto domenica a Castellammare di Stabia durante e dopo Juve Stabia Lanciano. Ma è accaduto quello che purtroppo accade in tante realtà ormai del nostro calcio, cioè magari è meno visibile nelle grandi platee di Serie A, ma dove in Serie C accade sovente, cioè dove le partite hanno un grado di tensione e raggiungono gradi di violenza inaudite. Non è successo niente, una partita che stiamo perdendo, contestazioni che però sono sfociate anche contro la mia persona, con continue minacce dietro la panchina, con continui insulti, con una bottiglietta di caffè Borghetti scagliata con grande violenza da pochi metri che mi ha colpito in testa. Però poi a fine gara c'è stata questa contestazione continuata, poi io darò le mie dimissioni alla società e quello essere anche riviste in qualche maniera. Certo, infatti leggevo su Repubblica di ieri che quello era soltanto l'inizio, nel senso che lei ha fatto un gesto formale. Sì, un gesto che mi sentivo obbligato in quel momento. Certo. Era molto attaccato alla squadra, era molto attaccato alla proprietà che mi ha portato lì. Probabilmente sono subentrato perché sono arrivato lì alla quinta giornata. Sì. Una proprietà che avevo combinato la scorsa a Sorrento, sono persone eccezionali, persone molto molto per bene, e quindi mi sono lanciato con grande entusiasmo in questa avventura. Mentre io ero ancora lì negli spogliatoi, i ragazzi sono andati con il pullman, hanno raggiunto l'albergo e dall'albergo hanno preso le macchine per tornare nelle loro abitazioni, che sono dislocate lontane da Castellammare. Lungo la strada due di questi ragazzi sono stati fermati da una macchina dove c'erano sei persone, sono stati aggrediti, picchiati, aggrediti, altri due sono riusciti a scappare. A quel punto là, io, quando ho saputo questa notizia, ha ripreso carta e penna. Non l'avevo mai date, erano formali. Sì, la sera sono stato a casa, ho dormito nell'albergo dove a Sorrento dove alloggiavo, e la mattina precedente abita lì e ho portato le mie dimissioni irrevocabili, proprio perché credevo che ci fossero più le condizioni di spirito per me per poter lavorare, e soprattutto la protesta rivolta molto su me, molto sulla squadra, proprio per proteggere tutti quanti, mi sembrava la cosa ovvia a farmi da parte, ma poi anche perché io non posso accettare al di là del lavoro certe cose che comunque, le ripeto, questa è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché il nostro calcio purtroppo è malato a prescindere, perché se no non si spiegherebbe le partite a porte chiuse, perché certo, i tifosi non possono più andare da una parte o dall'altra, perché gli stadi sono diventati, quando arrivi in uno stadio sembri di entrare in Vietnam, perché c'è più polizia che spettatori. E non basta ancora. Significa che io non me la sento, e non è un discorso di Castellammare, è un discorso in generale, che non il calcio per me, nonostante sia un professionista, rimane un'espressione di gioia, di allegria da trasmettere, ma se invece nel resto di chi viene è soltanto cultura di violenza, perché attraverso la violenza si può arrivare alla vittoria, questo non mi sembra proprio il caso di continuare, e quindi ho detto basta. E quindi ha detto basta. Morgia, evidentemente non è facile far passare i messaggi in questo paese, perché il luogo comune immediato, la prima reazione, infatti lei ne ha già parlato ieri in questa intervista, è stata: Morgia se ne va perché ha paura. E lei ha ribattuto, e per questo davvero idealmente le sto stringendo la mano, che la paura sarebbe stata quella di restare in silenzio a subire tutte queste violenze. Il coraggio invece è quello di averli denunciati in questa maniera. Rispondo un altro, io ieri sera sono venuto via, ho assistito a una trasmissione, perché su un network di là, su una trasmissione da casa mia in Toscana, ho assistito a una trasmissione che hanno fatto ieri sera su questa vicenda. Le posso assicurare che mi sono sentito veramente umiliato da quante me ne sono state dette dal direttore di questa televisione, perché io avrei infangato il nome della città, io sarei scappato, quelli erano quattro teppisti, mi capisce dove arriviamo? Io faccio il gesto, poi vengo colpevolizzato perché io ho infangato il nome della città. Io non ho infangato nessun nome della città, io ho infangato chi ha compiuto il fatto, certo. E quello che succede nel calcio, per me poteva succedere ovunque, anche in Groenlandia, era la stessa identica cosa. No, anche perché io adesso provo a leggere a chi ci sta ascoltando il suo curriculum. Lei ha allenato a Sarzana, a Poggi Bonsi, a Viareggio, sì, a Pavia, e poi da lì ha cominciato una calata verso il sud, se questa ricostruzione è ben documentata. Marsala, Palermo, che è stato l'apice della carriera, 2 anni a Palermo, Savoia, Catanzaro, 2 anni a San Marino, il Foggia e il Sorrento, e adesso la Juve Stabia. Non mi pare che un curriculum del genere significhi che lei finora è stato proprio in tutte isole felici, no? No. Ma ho sempre detto, ho ricevuto contestazioni anche da altre parti, ma non ho, per mia fortuna, però io sapevo che succedeva da altre parti. Io ho sempre detto che se qualcuno si azzardava a mettere le mani addosso a me o a un mio giocatore, perché leggevo da altre parti, io non ci pensavo un attimo, avrei mollato immediatamente. Ma questo l'ho detto anche ai miei giocatori quest'anno, ho detto: la prima volta che succede qualcosa di spiacevole, io ho mantenuto fede a quello che è sempre stato il distinguo della mia carriera, al di là dei successi o degli insuccessi. Io sì, ho sempre fatto questo lavoro pensando che, oltre ad essere un allenatore, sono un educatore, proprio perché sono un uomo pubblico, e sono educatore anche con i ragazzi che ho nel mio gruppo, e credo che un educatore non possa accettare simili cose, ma al di là dei soldi, al di là della carriera, ma al di là, certo, di qualsiasi altro discorso. Ma soprattutto se sono reiterati, perché mi pare di aver letto che questo è accaduto domenica, ma qualcosa di molto simile era già accaduto dopo la partita col Potenza, dopo la partita con la Pistoiese. Non è una domenica di no, mezza follia, no, che di uno follia. Dice vabbè, no, era un andazzo, era un andazzo, ma io credo che si sono letti anche da altre parti di auto incendiate l'anno scorso, di un direttore sportivo, mi sembra, no? Gallipoli. Ma se nessuno fa niente, se nessuno denuncia, se nessuno rinuncia, come possiamo andare avanti? Infatti. Salvo poi quando succede qualcosa di veramente spiacevole, si fanno i dibattiti, si fanno tante cose che poi rimangono fine a se stesse. Certo, che proprio noi uomini di sport dobbiamo ribellarci e dobbiamo anche rinunciare. Io ormai sto 7 mesi in casa, e mi creda, non è per un problema economico, è proprio il fatto di non poter lavorare che mi sconvolge, perché il lavoro è la mia passione, è la mia gioia di vita, e questo ora mi è precluso, perché ho mantenuto fede a un principio. Il fatto che lei dice, appunto, che poi su tutto questo vengono, fino al morto, vengono sempre soltanto stese cortine di silenzio, è la ragione per cui io oggi le ho chiesto di intervenire. La ringrazio di averlo fatto, però in conclusione mi tocca farla arrabbiare un'altra volta. Lei si è arrabbiato già molto ieri sera, ci ha raccontato, con questa TV privata o network che fosse. Adesso io le leggo, perché è uscito da pochi minuti, il comunicato dell'osservatorio l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, che è stato appunto redatto un'ora fa, vedo la data un'ora fa, e che comunica che da domani in avanti analizzerà seriamente alcune prossime partite. Una è proprio Benevento Juve Stabia, una Migliani con l'Aquila, poi c'è Napoli Lecce, sono mischiate, no? tra le varie categorie, Avellino Sarnitana, Genoa Atalanta, Kragas Licata, eccetera. Le prime righe dicono che il comportamento negativo di alcuni tifosi della Juve Stabia, culminato con l'aggressione a due calciatori, è stato stigmatizzato dall'osservatorio, ha capito? Il comportamento negativo è stato stigmatizzato, che è, non so, è come più o meno porgere l'altra guancia, forse persino meno. Sì, sì, appunto. E che infatti, drammaticamente conferma quello che lei diceva prima, insomma. Infatti, cioè, io dico... Io poi mi batto anche per un'altra cosa, cioè io dico, se questo episodio, io purtroppo, lei ha letto la mia carriera, e io ne sono orgoglioso di aver lavorato in piazze così importanti, ma in Serie C. Io credo, l'ho detto d'altra parte, se questo episodio fosse successo a Milano, al ritorno di Palermo, Milan, a Kakà e Ronaldinho picchiati e malmenati. Certo. Sì, sì. Che c'erano, vabbè, a parte cosa avremmo fatto? A parte le interrogazioni parlamentari. Poi interventi parlamentari e di tutto. E che figura avrebbe fatto un paese confronto al Brasile, dico? Cioè, io credo che i miei giocatori sono uomini come Kakà e Ronaldinho, avrebbero avuto la stessa visibilità, e io credo col mio fatto di essermi esposto, di essermi andato, un bricio di visibilità l'ho data, perlomeno questo. E per questo, Morgia, che in conclusione, ringraziandole, c'è un'altra stretta di mano per come può essere via radio. Grazie davvero. Grazie di nuovo. Grazie per aver partecipato. C'è poi un altro genere di calcio provinciale, che è quello di cui ci occuperemo nella seconda parte della trasmissione, perché per fortuna in provincia non accade soltanto questo, in provincia ci si va ancora per divertire, magari anche verso fine carriera, come capita a giocatori celebri, e questo sarà la seconda parte di una puntata un po' anomala come quella che ho pensato di costruire oggi, proprio per uscire un pochino anomala anche nella partenza, perché c'è stato un mezzo di sguido tecnico, come certamente avrete notato, indipendente ovvio dalla nostra volontà. Marco Manzardo, che è sempre uno dei più tempestivi e sensibili, da Udine nello scrivere i suoi SMS, mi scrive: buongiorno, ero rimasto molto colpito leggendo ieri sulla Gazzetta i deprecabili fatti di Castellammare e Ascoli, non è mai facile esporsi così in prima persona, speriamo che il signor Morgia non resti solo. Ed è esattamente la ragione per cui Massimo Morgia ha avuto suo malgrado questa visibilità, perché teniamoci bene, sarebbe stato lui il primo a farne a meno volentieri. Ma lei legge solo Repubblica, che squallore, scrive un altro ascoltatore. No, leggo 5-6 quotidiani al giorno, da Repubblica e dalla Gazzetta dello Sport ieri ho ricavato questa intervista, quella di Repubblica mi sembrava migliore, quindi mi sono aggrappato lì, caro interlocutore anonimo, perché questi SMS qua sono sempre rigorosamente anonimi, e in ogni caso la informo che la nuova classifica quotidiana dei quotidiani comunisti riguarda il Corriere e la Stampa, semmai, quindi non mi pare che Repubblica oggi perlomeno sia particolarmente nel mirino. Se poi vogliamo parlare di atteggiamenti che coinvolgono il pianeta educazione, e siamo ovviamente lontani anni luce dalle violenze di cui sopra, però insomma non mi è sembrato nemmeno molto carino l'atteggiamento di Zenga, allenatore del Catania, domenica fine partita, ricavandolo dalla motivazione con cui il giudice sportivo gli ha inflitto una giornata di squalifica. Una giornata e 6.000 euro di ammenda a Zenga per aver insultato la terna arbitrale e assunto un atteggiamento irriguardoso verso i collaboratori della Procura federale durante l'intervallo e verso i commissari antidoping al termine della partita pareggiata in casa con il Lecce. Tre giornate inoltre combinate a un dirigente del Catania per atteggiamento aggressivo nei confronti di un giocatore avversario al rientro negli spogliatoi a fine primo tempo. Ripeto, sono sono due facce lontanissime tra loro di una medaglia, ma non sono certamente, non sono certamente episodi positivi. Se vogliamo ricominciare con le sciocchezze invece, con le leggerezze con cui più facilmente ci si nutre, beh, insomma, stando a un'agenzia inglese, il Manchester City ha appena offerto 150 milioni di euro per Iker Casillas. 150 milioni di euro fa una trecentata di miliardi vecchi, insomma, se ragionassimo ancora in lire, e comunque sono 150 milioni di euro per il portiere del Real Madrid. Come da qualche tempo stiamo ricordando e ricorderemo nei nostri appuntamenti del giovedì, che sono dedicati poi ai risvolti economici, normativi, sociali del calcio, la Premier League sta rischiando seriamente di saltare per aria per bancarotta. Il Manchester City in questo momento sta evidentemente godendo di denaro fresco, ma è così poi, no? che le società falliscono e trascinano con sé tutto un movimento. Torniamo in onda, ci sono molti messaggi interessanti. Poi c'è un Sergio, che è un tassista milanese, anche lui ama conversare via SMS, evidentemente nelle soste al parcheggio, e vi tiene al corrente anche dei commenti dei clienti, in questo caso particolarmente divertenti, e ve li riferisce via SMS. Non è facile tenere dietro a messaggi, telefonate, notizie di agenzia, però è estremamente divertente davvero, complessivamente. Mirko è in linea da Vicenza, buongiorno. Buongiorno, dica. Io volevo intanto salutarla e ringraziarla per la trasmissione, che è molto interessante. Poi volevo dire una cosa che mi sembrava, che qua in Italia tutti quanti, da tutti i punti di vista, la legge non funziona, perché anche quando succedono certe cose di questo tipo, aggressioni e via dicendo, sia nel calcio che nella giustizia ordinaria, non funziona mai la pena che dovrebbe pagare la gente per quello che commette. E poi volevo anche solidarizzare con l'allenatore della Juve Stabia per quel fattaccio che è successo, insomma. Volevo una sua opinione, se è reale questa cosa della giustizia italiana, che forse non funziona, che forse siamo troppo ipocriti, insomma. Mirko, mi dica lei, la domanda gliela giro io, a lei cosa risulta che funzioni nel nostro paese attualmente? Quasi niente, però volevo solo esporre questa cosa, che secondo me è inutile che poi tutti quanti continuano a dire c'è la violenza nel calcio, quando succede qualcosa nessuno paga per quello che fa, insomma. Questo nessuno paga, no, non c'è nessun dubbio, ma soprattutto io vedo un approccio troppo morbido nei confronti di comportamenti di questo genere, perché il fatto che un allenatore venga colpito da una bottiglietta in campo, venga insultato, questo purtroppo fa parte della routine sui campi. Ma non è la normalità. Ma è così da sempre, in compenso, perché io ho giocato in quei campi, anche in quei campionati e a livello non di molto inferiore, e mi creda che 40 anni fa era assolutamente la stessa cosa. Ma non è tanto quello il punto. Il punto è che si continua a dire. Il punto è la rabbia che ti prende ormai quando senti parlare di tolleranza zero, no? E poi vedi cos'è la tolleranza zero. Cioè, questi un gruppo di ultra, e mi rifiuto di credere che gli ultra della Juve Stabia, stiamo parlando di questa società, adesso potremmo parlare di tante altre, che rincorrono per strada, in autostrada, due giocatori, fino a fermarli, farli scendere, aggredirli e pestarli, mi rifiuto che di pensare che la polizia, comunque che gli inquirenti, non sanno chi sono. Ma lo sanno benissimo, non c'è nessun dubbio, però a oggi, a questo momento, non è stato preso alcun provvedimento. E se leggo che l'Osservatorio Nazionale, quello della tolleranza zero, teorizzata ai massimi livelli, parla testualmente, leggo tra virgolette, del comportamento negativo di alcuni tifosi della Juve Stabia, il cui comportamento per l'appunto è stato stigmatizzato dall'Osservatorio Nazionale, lei capisce bene che tra questo lessico burocratico grottesco e la realtà dei fatti corre evidentemente qualche anno luce. Tocca a Nicola da Torino, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signor pronto? Dica Nicola, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, innanzitutto è un piacere sentirla, l'ho già chiamata altre volte. Io volevo oggi, al di là della mia fede calcistica, ringraziarla per averci fatto conoscere uno dei, credo ancora pochissimi, personaggi politici che ci sono nel mondo del calcio. Mi riferisco all'allenatore dello Juve Stabia, che devo dire tanto di cappello, una persona che per mantenere fede a un suo principio ha anche rinunciato economicamente a un suo sostentamento, quindi tanto di cappello. Vorrei che questo signore venisse a allenare la mia squadra di calcio. Le dico in tutta sincerità, che è Torino, senza andare tanto lontano. Dall'accento che ha lei mi sembra, cioè, non avevo molti dubbi sul fatto che avrei indovinato. Una provocazione. Fino a un certo punto si è dimesso, sarei curioso di sapere cosa ha fatto il presidente dello Juve Stabia, mi farebbe piacere saperlo da lei, se sì, lo sa. Immagino che sia rimasto al suo posto. Io per la verità in uno di questi due servizi che avevo letto ieri, avevo letto che anche l'intera dirigenza era dimissionaria, ma poi non ho trovato altri riscontri, sicché nel dubbio mi sono fermato a Morgia, che in ogni caso era quello che intanto le aveva prese e poi comunque era quello che aveva trascinato gli altri, no? su questa linea. Vabbè, proviamo a rifarci la bocca tutti insieme, non per dimenticare e nemmeno per rimuovere, intendiamoci, ma giusto per dire che ogni tanto, così come la provincia può essere fetida, come in questo caso, in certi casi invece può essere rigenerante. Ci sono un sacco di calciatori a fine carriera che stanno giocando in categorie minori, ma minori davvero, e sto parlando di gente come Chiesa, come Del Vecchio, come Lentini e Fuser, che lo fanno da anni in Piemonte e sono attualmente a Savigliano, tra l'altro in testa alla classifica, Dino Baggio, Robiati, Hubner, Capioli. Uno in particolare, Flavio Suardi lo ha scovato con particolare piacere, perché? Ma perché si tratta di Ballotta, che non solo è arrivato, come ricorderete, a 44 anni in porta alla Lazio fino allo scorso campionato, ma che ha ricominciato a giocare nel Calcara Samoggia in prima categoria, che è una squadretta, credo, nel suo paese o dintorni. Adesso lo sentiremo nell'intervista. Però il bello non è quello, è che lì, anziché il portiere, a 44 anni fa il centravanti. E allora direi di ascoltare questa conversazione di Flavio Suardi con Marco Ballotta. Normale che un portiere, quando decide magari di smettere di giocare ad alti livelli, non vedo perché debba continuare, se magari vuol divertirsi e farlo a livello di prima categoria. È sempre stata una mia passione, diciamo, fare il centravanti, anche perché anche durante gli allenamenti mi divertivo, ad andare in attacco nelle partitelle, giocare fuori. E perché non divertirsi quando lasci o appendi i guanti al chiodo, e se poi stai ancora bene fisicamente, divertirsi un po' con gli amici cercando di fare gol che per tutta la vita ne sono subiti. Diciamo un po', ecco, dove giochi innanzitutto e come sta andando il vostro campionato, dove ti troviamo? Gioco nel Calcara Samoggia, qua vicino a Castelfranco Emilio, dove abito in prima categoria e siamo posizionati più su della metà, abbiamo 3-4 punti dalla prima. Adesso vediamo in queste partite cosa succederà, poi magari vedere di puntare a qualcosa anche di importante, però essendo stata una squadra che ha vinto il campionato lo scorso, dalla seconda andata in prima, ci vuole anche un anno o due di adeguamento alla categoria, però la squadra c'è, ci sono dei bravi ragazzi e l'importante è quello. Poi come va la tua esperienza da attaccante? Hai già giocato? Giocato due mezzi tempi, la prima partita ho fatto 15 giorni fa, il secondo tempo che era appunto iniziato, non sono ancora troppo allenato, e ho giocato il primo tempo domenica scorsa, però mi sono fatto un po' male, allora sono uscito, perché c'è da correre molto a fare l'attaccante, quello è vero. Come si vive il calcio a questi livelli? C'è insomma divertimento, oppure magari sapere che hai davanti un ex grande del calcio italiano agli avversari fa sempre un po' piacere, no? E quindi si impegnano alla morte contro di voi, c'è risentimento, insomma come si vive in queste categorie? Ma secondo me dipende molto da come ti poni. Io sinceramente mi pongo come quello che magari sì ha giocato, però non pesare assolutamente niente, anche perché sinceramente sono lì solo per divertimento, giustamente per vincere, ma per divertimento. E sì, magari perché poi ti conoscono tutti, allora va bene, ma è presa nella maniera giusta. Poi mi sento tornato indietro nel futuro, perché avevo cominciato, come penso tutti, a livello dilettantistico, e praticamente sono ritornato a livello dilettantistico da come sono partito, e giocando vicino a casa dove sono nato praticamente mi sento tornare indietro di 30 anni. E la pressione certamente non è quella dei grandi palcoscenici, insomma. Molto diversa, sinceramente manca un po' la pressione, però in un ruolo diverso la prendi diversamente, anche se c'è del pubblico anche accanito, ma è divertente, divertente. Mancano alcune cose, però ne ritrovi altre di nuove, che io penso che gli stimoli e le cose nuove siano sempre ben accette. Ballotta, avete sentito, Marco Ballotta, il Calcara Samoggia in prima categoria. Nei giorni feriali, oltre ad allenarsi, segue una sua azienda, questo mi piace particolarmente, di geotermia, e cioè il riscaldamento che non immette gas nell'atmosfera, insomma, diciamo, le nuove fonti di energia per migliorare l'ambiente. Chiesa, Enrico Chiesa, vi dicevo, domenica gioca nel Figline, primo nel girone B della seconda divisione, domenica ha giocato contro Spadino Robbiati, che era un suo ex compagno di squadra della Fiorentina, contro il Bassano. Marco Del Vecchio gioca nel Pescatori Ostia, ha 35 anni, insomma, ciascuno di loro cerca e spesso trova il modo di continuare a divertirsi. Nel frattempo abbiamo rintracciato la presa di posizione dei dirigenti della Juve Stabia. Leggo su un'agenzia appena arrivata da Madrid che il Real dovrà fare a meno ancora per un periodo da 2 a 6 mesi di Diarra. Diarra manca già da moltissimo tempo, questo centrale difensivo, centrale di centrocampo arretrato semmai, l'agenzia precisa fino a un certo punto, insomma, una radiografia, una ricaduta della lesione al ginocchio, e quindi questo aumenta ulteriormente il numero dei grandi infortunati, traumatizzati del Real Madrid, che è poi la causa prima della flessione, anzi diciamo pure della crisi del Real. Ero assolutamente ignaro, scrive Giancarlo Tiranti da Brebbia, provincia di Varese, del fatto che all'interno della reazione 24 si nascondessero cosacchi, ma io, a differenza del suo interlocutore di prima, mi firmo, e per l'appunto Giancarlo Tiranti, eccetera. C'è in linea Roberto da Milano, buongiorno. Buongiorno, ciao Garanzini. Dica. Allora, senti, ho un problema da milanista, e sì. Il problema si chiama Pirlo. Sì. Io ne avevo parlato con lei parecchio tempo fa e dicevo che, insomma, con questi nuovi acquisti, secondo me Pirlo era il personaggio che in quella squadra non ci poteva stare, con tutto il rispetto per il giocatore che è grandissimo. Sì, oppure, mi scusi un attimo solo, oppure, prego. Il problema si può vedere da un'altra parte di visuale, sì, voglio dire, il problema con uno dei più grandi centrocampisti d'Europa come Pirlo era di non metterci insieme con gli altri con quelle caratteristiche. Infatti stavo arrivando a questo. Ecco. No, per l'amor di Dio, stavo arrivando a questo. Era bello Pirlo quando avevamo le due ali, che erano due terzini, che andavano e lui lanciava con i suoi lanci millimetrici. Ora con i trequartisti il lancio non ha più senso. Cioè, lei mi insegna che chiaramente quando io ho due, come diceva Rocco, quelli davanti che sanno un monaco e sa sempre cosa fare, io gli do la palla e loro si arrangiano, quindi ci vogliono solo dei portatori d'acqua a centrocampo. Un lusso come quello di Pirlo, cioè, secondo me è un grosso problema. Lei cosa ne pensa? Intanto la saluto e gli faccio l'augurio di buone feste. Io la ringrazio tanto, ho conservato l'appetito nonostante questo grosso problema, e così mi auguro lei. Lascerei fare Ancelotti, sinceramente, e non vedrei di non turbarmi più di tanto. Non credo che sarà Beckham a risolvere questo problema, ripeto, credo il povero milanista di là dal vetro in regia sia coperto gli occhi con le mani e sta scuotendo vigorosamente la testa, insomma, se fai le squadre con le figurine, poi io credo che il Milan abbia già fatto moltissimo quest'anno in rapporto a come è stato pensato e costruito, poi gli auguro di riuscire a trovare tutto sommato una traccia di soluzione, come per qualche tempo aveva trovato. Fioccano i messaggi di ascoltatori che segnalano altri casi di ex calciatori di alto livello che sono scesi di categoria per continuare a stare in forma e a divertirsi, a provare un po' di quell'adrenalina domenicale a cui non sanno evidentemente rinunciare. Uno è Luigi Turci, ex portiere dell'Udinese, che un ascoltatore a nome Jack segnala giocare a grado in promozione ma a basket, dice. A basket. Poi Piero da Abbiategrasso raccomanda di non dimenticare Benito Carbone che gioca nel Pavia, ma il Pavia stiamo già parlando di categorie superiori. Zé Maria pare che giochi in eccellenza, nell'eccellenza in Emilia Romagna. E poi ci sono molti messaggi di gradimento per Ballotta. In linea c'è Giovanni da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti quanti. Niente, io volevo soltanto dare la mia solidarietà ed essere contento per una trasmissione che parli di queste cose per l'ex allenatore, a questo punto non so se è ex allenatore dello Juve Stabia. Perché queste situazioni sono veramente folli, e quello che ha stigmatizzato lei Granziti rispetto alla stigmatizzazione dell'osservatorio mi sembra una cosa giustissima. Questi sono dei folli non fra virgolette, no, folli no. Reali purtroppo. E quindi cosa c'è da fare? Niente, augurarsi che ci sia un buon anno per tutti quanti quelli che sono ancora delle persone fra virgolette normali, non persone umane, come sento dire, la persona è umana e basta. Certo. Quindi niente, auguri a tutti. Grazie, grazie Giovanni. Ho fatto un po' di confusione prima, mi informa Giovanni da San Zeno, provincia di Vicenza. Chiesa e Rubiati giocano insieme nel Figline e domenica hanno segnato loro i due gol, uno ciascuno, contro il Bassano. Vi dicevo delle prese di posizione dei dirigenti, qualcuno dubitava del fatto che la dirigenza della Juve Stabia avrebbe seguito il gesto di Morgia, per il momento invece non è così, nel senso che il direttore sportivo Roberto Amodio ha scritto questo comunicato è di ieri sera: dopo l'episodio registrato di domenica la società si è concessa una pausa di riflessione al fine di stabilire se sia il caso di continuare a fare calcio in un certo modo o se dare un taglio. Con grande rammarico, essendo stabiese ed avendo giocato per anni nella Juve Stabia, devo ammettere che la proprietà non ha mai ricevuto il giusto e concreto riconoscimento in tutto questo frattempo, ma che a questo punto è arrivato il momento di dire basta a certi comportamenti e a certi atteggiamenti. Quindi mi pare che anche la società stia facendo il possibile per oltre che per denunciare, per seguire Morgia in questa sua, che non è una crociata, ma è semplicemente un atto, ripeto, che gli idioti hanno scambiato per un atto di paura, e non me ne sorprende, e invece è un atto di estremo coraggio. Filippo, provincia di Bari, buongiorno. Salve, signor Gigi. Dica. Ascolti, avrei un'osservazione da fare e una domanda per lei, possibilmente. Sì. La prima... Tengo presente che io avevo già letto ieri in Gazzetta l'articolo riguardante Morgia. Certo. E avevo già preso nel mio piccolo, sapevo già chi aveva ragione e chi aveva torto, evidentemente. Però io credo che comunque lui abbia fatto bene nel dimettersi e nell'allontanarsi dal calcio un attimino, e che giustamente dica che adesso lui non può lavorare, non è tanto l'aspetto economico, ma è il fatto che non possa lavorare la cosa che lo affligge di più. Sì. Però voglio dire, credo che questo atteggiamento di denuncia, lo dico col cuore in mano, sia abbastanza inutile, perché comunque, anche come dice lui, che d'altronde se non cominci qualcuno a farlo, una cosa del genere, non lo farà mai nessuno. Però credo che di essere abbastanza grande da poter dire che comunque non cambierà niente comunque, come al solito d'altronde. Parlo dello sport, chiaramente. E se mi è possibile vorrei farle una domanda. Sì. Di solito i giornalisti sportivi, come lei magari, non dicono mai perché squadra tifano. Ma mi potrebbe dire lei per quale squadra non ti farebbe mai? Il Bari. La ringrazio. Il Bari. Perché il Bari? Perché ha chiamato da Bari lei, evidentemente, che discorso. Per tre squadre non ti farei mai, l'ho detto più di una volta. Sono non solo in ordine alfabetico, sono Juventus, Inter e Milan. Sono le uniche tre, se parliamo di squadre italiane. Perché hanno già talmente tanti milioni di tifosi. Credo che coprano l'80% del fabbisogno nazionale, non hanno certo bisogno del mio tifo. Quindi vede che non c'è nessun imbarazzo a rispondere alla sua domanda. Dunque, a chi tocca? Era Filippo alla provincia di Bari. Ci sono delle voci da ascoltare, ci sono delle belle mail, però dai ancora spazio a Gianfranco da Modena. Buongiorno. Buongiorno. Dica Gianfranco. Io volevo intervenire perché quando ho sentito Ballotta, sì, adesso ci spiegheranno cosa è successo nel Modena con Ballotta, perché non si è capito tanto bene, perché era stato ingaggiato da Amadei. Sì. E poi dopo 15-20 giorni così è scoppiata la bomba, Ballotta si è ritirato, ma non si è capito il perché. Non ne ho la minima idea, Gianfranco. Perché io sono un tifoso più che altro locale, diciamo. Sì. Noi abbiamo le due squadrone, Modena e Sassuolo, no. Uno in negativo e uno in positivo. Ah, ecco, perché lo squadrone adesso è Sassuolo. Sì. Però anche il Modena, non è che c'è qualcosa che non riesce a... c'è qualcosa, perché... gli arbitri contro. Quelli riguardano la sfortuna, c'è un insieme di cose. Guardi che l'arbitro contro è un flagello che riguarda tutti, eh? No. Ci sono 20 squadre in Serie A e 22 in B, ci sono 42 arbitri contro. No, contro tutti, perché non si sa mai. Io credo che Ballotta non lo so, la prossima volta glielo chiederemo. Oggi ha un altro taglio la conversazione ed era un'altra cosa. Mi pare di aver capito che si diverte come nel Calcara Samoggia e mi pare anche che, mettendo insieme la sua azienda di geotermia, tra l'altro mi è appena arrivata un sms in cui diceva un ascoltatore, diceva, adesso spero di rintracciarla, da Castelfranco Emilia, se ho letto bene, che in questa azienda Ballotta sta assumendo, quindi sta anche creando dei posti di lavoro, almeno lui, e quindi insomma mi pare che Ballotta abbia fatto la scelta giusta. Volevo leggervi, approfittando di un attimo di stasi di ascoltatori già collegati, volevo leggervi, poi rinterverrete magari dopo all'800240024 nel finale di programma. Volevo leggervi questo strepitoso buongiorno di Massimo Gramellini di oggi, dal titolo Ilaria Parti, che figura sulla prima pagina della Stampa, uno dei due quotidiani all'indice di giornata. Scrive Gramellini: fu nella drammatica notte del 2 dicembre 2008 che il consiglio di amministrazione di Sky prese l'unica decisione in grado di garantirgli la sopravvivenza, fondare un partito politico. Ilaria Parti, dal nome dell'onorevole D'Amico, candidata al Ministero della Difesa e contropiede, l'Italia è il paese che amo, disse il presidente Murdoch, doppiato dal telecronista Caressa, ispirandosi a un format di successo degli anni 90 di cui aveva comprato i diritti. Il programma fu redatto da una squadra di esperti guidati da Vialli e Topolino, in quota Disney Channel. Primo, lotta all'ultima parabola contro il regime bello comunista. 2. Più partite di calcio e film a luci rosse per tutte, anche gratis a mezzogiorno. 3. Inaugurazione dell'Albino Alef Channel per sottrarre voti alla Lega. 4. Riduzione dell'IVA sulla pay TV lo 0,1% pagabile in comode rate quarantennali. Un documento riservato suggeriva di concentrare gli sforzi soprattutto sul punto numero 4. Essendo le frequenze di destra tutte occupate, di Ilaria Parti decise di schierarsi a sinistra, dove il segnale era debole, anzi praticamente assente. Ottenne il sì di rifondazione in cambio di un canale dedicato alle interviste di Gianni Minà, mentre per convincere Veltroni bastò garantirgli le repliche di Giovanna, la nonna del Corsaro Nero, su Sky Classic. L'unico a tenere duro fu D'Alema, lo dissi nell'autunno del 93 e lo ripeto oggi: in Italia non può succedere che il padrone di una TV riesca a fondare un partito. Nota, tranne l'ultima frase, il testo è frutto della fantasia dell'autore. L'autore, ripeto, si chiama Massimo Gramellini, è vice direttore della Stampa. Ammesso e non concesso che i direttori non sappiano fare il loro mestiere, questo vice direttore mi sembra invece che lo sappia fare. Beh, Paolo da Brescia ha inviato quello che finora è di gran lunga il messaggio più spiritoso di giornata. Fra le vecchie glorie che giocano per divertirsi in squadrette amatoriali o quasi, non dimenticate Beckham. Il milanista crolla in cabina di regia. Pregherei il milanista di ricomporsi e di mandare in onda la rubrica quotidiana di storia, cos'è successo nella storia dello sport, il giorno, la data di oggi, il giorno 3 dicembre. Sembra ieri. 3 dicembre 2002. A Yokohama il Real Madrid conquista la terza coppa intercontinentale della sua storia, dopo quelle del 60 e del 98. Zidane, Figo, Raul e compagni battono per 2-0 i paraguayani dell'Olimpia Asunción. Protagonista della gara è Ronaldo, che sblocca il risultato al 14° del primo tempo, andando in gol nello stesso stadio in cui 5 mesi prima aveva trascinato il Brasile al successo nella finale mondiale contro la Germania. La rete realizzata in Coppa Intercontinentale assicura al fenomeno il secondo pallone d'oro in carriera, che gli verrà consegnato 2 settimane dopo a Parigi. A proposito di palloni d'oro, a proposito invece di politica dei giovani, stavolta quella dell'Arsenal non ha pagato, perché la linea verde di varata da Wenger, che aveva fruttato il passaggio del turno, età media 18 anni, contro il Wigan nel precedente turno di Carling Cup, stavolta non ha fruttato. L'Arsenal ha perso 2-0 contro il Burnley di seconda divisione ed è uscito dalla Coppa di Lega inglese. C'è in linea Paolo da Torino, buongiorno. Sì, buonasera, mi ascolta? Certo, forte. Benissimo. E chiaro. Senta, la mia telefonata probabilmente desterà un sacco di pasticci, nel senso che sarò criticato, sarò qua e là, tutto quello che vuole, però non ha importanza, io resto sull'avviso e telefono per Pirlo. Allora, la nostra convinzione, che è dettata anche dai fatti tecnici, in quanto l'assenza ha dimostrato che il Milan è andato molto meglio, questo non è un atleta. Bisogna considerare che questo signore non ha corsa, non ha cambio di passo, ha sempre giocato davanti alla difesa del Milan, per cui sfuggiva al controllo tecnico degli avversari. I lanci lunghi servono a niente, anche se qualche volta è andata bene, perché il difensore è sempre agevolato. Quindi io penso sia giusto il momento, l'ultimo momento, per dire basta con questi giocatori, perché oggi se non si ha un certo ritmo, se non si ha una corsa, se non una variazione di cose, non si gioca più. E poi la seconda osservazione, e la ringrazio, spero che tramite lei possa arrivare al presidente del Torino, che purtroppo è stato tutto sbagliato, la squadra è molto modesta sia sotto l'aspetto tecnico e atletico, e speriamo tanto di non andare in B, ma io sono convinto che questo sarà il nostro destino. Grazie tante, buonasera. Buonasera a lei Paolo. Non entro nel merito della seconda, sulla prima, beh, insomma, sappia che la penso in maniera diametralmente opposta alla sua. Non so dove sono lo Zenit e il Nadir, non so mai se sono a 180 o 360 gradi, credo che siano 180, esattamente a 180 gradi. Continuo a ritenere Pirlo un grande giocatore, ma un grande giocatore davvero, in una posizione chiave del campo, ha bisogno di condizione, ha bisogno di tornare a essere Pirlo, a quello che ha sempre dimostrato di essere, e credo che intorno a un giocatore così e alla sua età, che è ancora discretamente verde, valga la pena di innestare dei giocatori con delle caratteristiche ben definite, non degli ibridi magari verso fine carriera. Questo semmai credo che sia il discorso, ma ovviamente il calcio è bello perché è vario. Davide ha chiamato da Bologna, buongiorno. Buondì signor Ganzini. Dica. Solo per fare una segnalazione, sì. Visto che parlavate di ex calciatori che hanno militato in categorie inferiori e che ci stanno provando anche. Io volevo segnalare un giocatore che ha un po' di anni, si chiama Fabio Poli. Non so se lo ricorda, ha giocato nel Lazio, nel Bologna negli anni 90, e che credo che abbia fatto gol in tutte le categorie, a partire dalla terza categoria fino a arrivare alla Serie A. Adesso è un allenatore di una squadra di eccellenza, ma ogni tanto si diletta ancora a giocare a calcio, perché è un amante del calcio. Grazie. Ho sentito con piacere, stavo scorrendo i messaggi, ce n'è uno firmato Paolo che dice: ma a sto Pirlo vendetelo alla Roma, visto che proprio non mi piace, ed è ovviamente un tifoso milanista, mentre Giacomo ricorda l'ascoltatore precedente di Torino che nell'ultimo anno con Pirlo al volante, aggiungo io, questo nel messaggio non c'è, il messaggio è: con Pirlo il Milan ha vinto Champions e Intercontinentale nell'ultimo anno, come corta la memoria del vero tifoso, ma io aggiungerei davvero con Pirlo al volante, non con Pirlo su un sedile dietro, no, a farsi rimorchiare, con Pirlo che guidava. Però non è solo, io sono convinto che non è solo questione di memoria corta, è questione di gusti innanzitutto, e i gusti sono diversi in tutto, figuriamoci se non c'è il diritto che siano diversi nel calcio. Ma in qualche intervento è anche un po' il gusto di stupire, non so se avete sentito il prologo di questo ascoltatore di Torino, sembrava che stesse per fare un annuncio a reti unificate, insomma, infatti mi aspettavo chissà che cosa, e invece era questo sgradimento per Pirlo, insomma. C'è stato chi nella storia, Brera, per parlare di un monumento, Brera amava le tesi sempre un pochino in controtendenza, no? le tesi contrarie a quelle delle maggioranze, però insomma non oltre certi limiti e certi parametri abbastanza normali. Non so di cosa parli Ancelotti in questo frammento che abbiamo registrato in mattinata, sentiamo. Hanno giocato giocatori che non sono ancora in condizioni ottimali. Il problema è che in questo momento per i difensori abbiamo le alternative, per i centrocampisti ne abbiamo di meno. Ma questa è la stessa squadra che ha fatto su 16 partite 12 vittorie, quindi non è che cosa devo cambiare, non c'è niente da cambiare. Pirlo è fuori da tantissimo tempo e quindi credo che lui per trovare la condizione ottimale ha bisogno di giocare, oltretutto c'ha un problema alla tibia che lo infastidisce nel rendimento e di conseguenza è inevitabile fare questi passaggi per trovare la miglior condizione di Pirlo. Beh, mi è andata bene, avevo un sospetto che parlasse effettivamente anche di Pirlo, era poi in realtà una miscellanea di vigilia di Milan-Lazio stasera, turno di Coppa Italia, però c'era un riferimento a Pirlo, che poi, sto disgraziato, me lo ricordo ancora anche nell'estate del 2006, insomma, fare una discreta figuretta davanti alla difesa, in quella posizione della metodista, no? al Mondiale. Però anche lì siamo sempre nell'opinabile. Sentiamo Gianni da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo chiederle, io sono tifoso del Torino, mio malgrado, insomma, sì. Forse per questo anche porto 4 bypass coronarici adesso, non lo so, insomma. Però volevo chiederle se lei conosce qualche rito voodoo o benedizione in vista del Natale, insomma, che possa risollevare un po' le sorti della squadra, insomma. È una domanda un po' ironica, però insomma, sì, mi rendo conto. Drammatizza anche un po', insomma, non lo so, insomma, sembra che non ci sia niente da fare con sto Torino. Insomma, i riti voodoo o queste, insomma, queste sciocchezze di scaramanzie, eccetera, in genere si risolvono le squadre, si riservano alle squadre sfortunate. Non mi sembra che Torino sia squadra sfortunata, mi sembra che sia al terzo o quarto tentativo consecutivo di mala costruzione. Mala costruzione potrebbe essere una roba, no, tipo Almodóvar, nel senso che tutte le volte questo presidente che, insomma, è strano che non giri anche con i calzettoni e con la tuta, no? Vista la smania di protagonismo e il così, la vocazione a fa su tutto mi, è strano che non, insomma, in questi anni risorse, energie, mi pare che ne abbia messe, sempre con l'idea ben precisa di non essere comunque oscurato, di poter occupare personalmente la ribalta principale per averne il ritorno, che in fondo è giusto che ciascun investitore di una società possa cercare, insomma. Quest'anno sembrava a sentire la soddisfazione di presidente, tecnico, tifosi stessi che, insomma, inizialmente hanno sempre una visione un po' troppo ottimistica della situazione, sembrava che fosse l'anno buono, se non altro per non soffrire. Mi sembra proprio che lei abbia accolto che non sarà così, e tanto vale che i tifosi del Torino lo capiscano per tempo, anche se la maggior parte ormai lo ha capito. C'era anche oggi Fabio Cantadori in regia, c'era Flavio Suardi in redazione, Giornale Radio.